E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. A Mario, te conviene rifiutare. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera. E questo dice il popolo di Roma. La zanzara. Ma la sai l'ultima? Paolo, l'ultima, Barzellettieri. Aspetta, l'ultima di qualche secondo fa, sei rimasta indietro. Basta Barzellettieri, ha detto a un certo punto Alfano in questa riunione drammatica, come si dice, in realtà patetica, ridicola, dell'ufficio di presidenza del PDL. L'ultima è che Berlusconi ha detto di sì alle primarie, cioè dopo aver detto le primarie mi fanno schifo, cioè adesso naturalmente non ha detto così, però in sostanza lo pensa. Ha vinto la linea Alfano. Sembra avere vinto la linea Alfano, cioè in sostanza Berlusconi non sa che fare, vorrebbe distruggere tutto, affossare tutto, forse andare in Kenya, comunque fare una lista sua, lasciando da parte il PDL con tutti i colonnelli, con tutto lo schifo, quello che lui considera schifo naturalmente, ecco, e dopo averlo naturalmente accettato per tanti anni, però alla fine si arriva a questo compromesso. Io in realtà in questo caso do ragione a Silvio, perché fare le primarie, no, aspetta, ti pareva, stai zitto cretino, non hai capito, cretino sei, un cretino sei, un cretino. Il problema non è quello, non è che do ragione a Silvio perché è Berlusconi, do ragione a Silvio perché che senso ha fare le primarie in un partito che ha il 15%, il 16%, due settimane dopo quelle del Partito Democratico? Si rischia il flop, non va nessuno a votare. Beh, si questo, rischia il flop. Questo è un altro problema, perché hanno distrutto il partito che non c'è mai stato, quindi. Comunque Berlusconi diceva il 25 di ottobre, sentite, con elezioni primarie aperte nel Popolo della Libertà sapremo presto chi sarà il mio successore dopo una competizione serena e libera tra personalità diverse, tra idee diverse, cementate però da valori comuni. Il movimento... Dice che ci vuole uno shock come nel 94, volti nuovi e grande shock, non basta cambiare il nome. Alfano ha detto non è che possiamo inseguire ex presidenti di Confindustria oppure gelatai, forse faceva riferimento a Grom, ti ricordi? Come no? Ma insomma, le follie di candidati, non è che possiamo inseguire questi che hanno meno consensi di noi, capito? Come al solito la sostanza del pensiero di Berlusconi viene evidenziata, viene comunicata dalla signora Santanchè. Senti. Io credo che a Berlusconi, non penso che lo appassionino molto queste primarie. Lui è molto più teso a pensare alla gente. Le tue mutandine che mi fanno morire quasi tutte le mattine. Mitico Pedrini sta cantando, eh? Croce rossine che mi fanno guarire, pane, burro e medicine. È come uno shock. Vuole lo shock Berlusconi, vuole lo shock. Intanto il signor Barbareschi, il deputato Barbareschi, deputato, attore, imprenditore, tutto Barbareschi, con pochissime presenze in Parlamento, il signor Barbareschi dice che nel PDL è pieno di omosessuali. Così a buffo proprio. A buffo, sì, a buffo. Dalla parodia, dalla parodia. Però effettivamente nel centrodestra, insomma, non è una posizione facile quella che avevi preso non tu. È facile, ma la trovavo estremamente ipocrita, perché il centrodestra è pieno di omosessuali più o meno dichiarati, alcuni anche fintamente sposati, insomma. Allora trovavo un po' ridicola questa cosa. È stato alcuni fintamente sposati, ma con chi ce l'ha? Ma che ne so, cioè, gente. Ogni tanto qualche esponente di centrodestra se ne esce dicendo è pieno di froci qua da noi, però nessuno si dichiara. Qui siamo noi, Poi siamo noi che vogliamo parlare di omosessuali, hai ragione. Senti il tuo amico Favia invece. Senti il tuo amico Favia, quello che non tu pensi. Amico, tu pensi amico... che sia quello il dissidente democratico di Grillo? Pensi che sia il volto buono dei 5 Stelle? No, senti che cosa dice. No, poi... furbetto, non è che è un mio amico, io non ho amici, poi non mi interessa. In io senso figurato, in senso figurato. Furbettino. Senti. Furbetto sei. Furbetto. Senti, il democratico Favia, senti chi vuole portare furbetto. In Parlamento. Furbetto. Pulire un po' il Parlamento e portarci delle persone che sono geneticamente diverse da quelle che ci sono state fino ad oggi, per moralizzarlo e portare le nostre istanze. Persone geneticamente diverse. Vabbè, infatti ha detto una stupidaggine. Amico mio, persone, cari ascoltatori della Zanzara, avete sentito? Questo è il volto democratico, intelligente, pulito del Movimento 5 Stelle, quelli che si oppongono alla dittatura di Grillo. Signor Favia, molto amico anche di Luca Telese, no? Con cui sono pappa e ciccia, sembra. Allora no. No, aspetta, aspetta, questo Favia dice tu sei amico di tutti i tiranni della storia. Sei aspetta. Ha ragione, calmati, calmati, il capo di Scientologi, calmati, Grillo ha ragione. Calmati, io non ho detto questo. Io ho detto Kim Jong, vuole portare persone geneticamente diverse in Parlamento, geneticamente diverse. Facci contro Feltri, non è la prima volta. Facci contro Feltri a proposito del suo appoggio a Grillo qui alla Zanzara. Facci. L'unico punto G che conosce Feltri è la G di grana, di soldi. Quindi c'è cioè, sinceramente buoni orgasmi a lui o polluzioni notturne che siano. Shock come Borghezio ieri alla Zanzara a proposito di Obama e il Ku Klux Klan, che diventa più forte grazie a Obama e poi Lulu, non dico che lo sostiene il Ku Klux Klan, ma quasi. Ah, ma il Ku Klux Klan è morto in America, è finito? No, è rigoglioso come non mai. Adesso non vorrei che queste mie parole potessero, diciamo, vagamente far sospettare una simpatia, ma però diciamo che i dati dicono che c'è una risorgenza grazie a Obama. Obama ha, diciamo, non ha mica solo dei torti, ha anche dei meriti. C'è anche questo, cioè, no? Due discorsi separati. Il Ku Klux Klan sta rinascendo, punto, a capo. Obama non ha mica solo dei torti, virgola, anche dei meriti. I due discorsi non necessariamente sono legati. E sentite anche la definizione che dà di Obama. No, ma è bello come dice punto e a capo. La definizione di Obama, senti. Siamo di nuovo in situazione un po' come era per Clinton, no? Un emerito coglione che improvvisamente diventa un grande personaggio. Questo era un avvocaticchio che si occupava dei diritti dei neri, di cui che non lo cagava nessuno, e poi improvvisamente diventa un personaggio importante e viene portato il santo sul piedestallo per fare burattini, evidentemente dei grossi interessi e delle lobby che sono. Esplode l'Italia dei valori, esplode. Se ne vanno due o tre deputati, Di Pietro cerca di giustificarsi, carte alla mano, dopo report, stasera sarà da Santoro, insomma grande casino, alleanza con Grillo sì, con Grillo no, si sta sciogliendo anche nei sondaggi, l'IDV. Se ne vanno Donati e Formisano dopo se lo troviamo naturalmente, sarà il nostro ospite. Bene. Ma dove vanno? La signora Mura, che invece resta, come sai, a fianco di Di Pietro, se la prende con De Magistris, senti. De Magistris ha detto che a me le marce si è diventato un fruttino. De Magistris, prima di parlare di questo partito, incominciasse a iscriversi. E visto che De Magistris è da un po' che lancia questa famosa lista color Fanta, io non l'ho ancora vista. È stato uno shock, dolcissimo shock. Sgarbi su Crocetta, senti, ti prego, altro che shock. Su questa Crocetta. Sera all'insegna dello shock, parola utilizzata da Berlusconi, ci vuole un altro shock, un Berlusconi del 94, ma di che parliamo? Shock Sgarbi. È un sindaco, come dire, antimafia sulla parola, poi in realtà è stato amante di un mafioso, pentito, ha fatto diverse... Vabbè, ha fatto però incarcerare più di 700 mafiosi, sì, almeno, questo sono i dati. Questo è un suo racconto. Poi confessa di essere una pedina in mano ai conduttori dei talk, sempre da Chiambretti, eh? Sono perfettamente d'accordo con Grillo, la sua valutazione della comunicazione è assolutamente perfetta, per cui è vero che io stesso, che pure ho molta energia, quando vado a un qualunque talk di quelli che lui ha citato, sono comunque stretto in quello che vuole di me il conduttore e quindi divento una pedina di un gioco. Generalmente uno litiga quando si trova stretto e alla fine ha una sola possibilità di parlare, lo interrompono, lo disturbano e quindi uno come me alla fine si è fatto spazio, sì, in modo inurbano, sì, effettivamente quello spazio non c'è, ha ragione Grillo, è uno spazio fasullo. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato, gratta gratta, ma peggio è, pure lo spray antizanzara mi son messo che, ma lei gira sempre intorno a me. Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Pronto, buonasera. Cercavo l'avvocato Samorì. Con chi parlo, mi scusi? Sono Cruciani, Radio 24. Buonasera. Pronto? Sì, un attimo solo. Sì, grazie. Signor Samorì, eh? Miliardario. Considerato anche... Pronto? Miliardario ragionare. Berlusconi, bello, di Modena, diciamo. Uno dei favoriti di Berlusconi, sembra, eh? Avvocato? Un attimo solo. Grazie. Sì, grazie moltissime. Sì, ci fa anche un bonifico intanto. Pronto? Sei un cretino. Ah, scusa, c'è un aereo privato? Ma che vuol dire? Amico, un reato, eh? Cioè, non posso dire che uno è ricco adesso. Sì, lo puoi dire, certo. Scusami, Kim Jong, scusami. Grande attesa, eh? L'avvocato Samorì. Tu sei Kim Jong da oggi. Aspetta. Il capo del più grande esercito del mondo. Morto, signor Kim Jong. Pronto? Avvocato! Ma cosa fa l'avvocato? Sì, ma che sta facendo l'avvocato? Pronto? Ma che cosa fa? È la zanzara, avvocato! Dov'è? Pronto? Avvocato, allora. Samorì! Sì? Buonasera, Cruciani, la zanzara... Come sta? Ma sto bene. Grande avvocato, come sta? Si faccia... Io vado, anelavo da giorni di parlare con un uomo così ricco. Grazie. Ma chi? Ma è Parenzo, è un cretino, lei, lasci perdere. Ah no, Parenzo è un amico, ma siete quelli della zanzara? Eh sì, avvocato, ma certo. Ma scusi, ma pensavo... Ma Cruciani, ho un amico che si chiama Cruciani. E chi è? Chi ha un amico che si chiama Cruciani? Chi è? Un amico che si chiama Cruciani, un signore. Ma che è quello là dei braccialetti? Ah, dei braccialetti, no, no, mi confondono sempre. Un signore di Milano Marittima che è un ristorante, una persona. Senta, avvocato, ma che succede nel PDL? Berlusconi prima dice di no alle primarie, poi dice di sì alle primarie. Come che ne sa? Lei sa tutto. Come no? I moderati in rivoluzione sta facendo. Se non lo sa lei. I moderati in rivoluzione, scusi, i moderati sono moderati, la rivoluzione. Il PDL e il PDL, non si capisce più niente. Ma scusi, non hanno fatto un comunicato adesso? Ma sì, dice che Berlusconi è d'accordo, però prima ha detto Ah, bene, vede. Sì, sì, si è un po' arreso di fronte a questa cosa. Berlusconi non le vorrebbe fare, ma non c'è tempo, avvocato, per organizzarle. Ma lei si candida? Guardi, sto aspettando di sapere se ci sono. Ci sono, diciamo che ci sono. Se ci sono, sì, e sono fatte in un modo che abbia senso, potrei candidarmi. Ma lei pensa, pensa di vincere seriamente? No, assolutamente no, è impossibile. Perché è impossibile, dice? Beh, ma scusi, c'è un segretario nazionale in carica da un anno e mezzo che ha fatto tutti i congressi, sì, controlla tutta la struttura, è amato da tutti, e come si fa a vincere? Cioè, lei dice è difficile vincere contro... Sono truccate, no, in realtà, saranno truccate. No, no, no, assolutamente, dico, è che... Alfano ha una qualità personale, un ruolo, una, sì, presenza. Ma allora lei che si candida a fare, così, per, diciamo, ma è testimonianza. Testimonianza di che? Testimonianza, perché chiederò alcune cose a Alfano per sì, aiutarlo. Cioè, ad esempio, scusi, se io chiedo ad Alfano, sì, lei è d'accordo a non ricandidare chi più di 4 mandati di parlamentare? 4 mandati, non me lo dicono tutti, lo dicono tutti questo. E cosa deve dire Alfano? E i candidati in primo grado si devono candidare, secondo lei? I condannati in primo grado? Sì, i condannati in primo grado. Ah no, questo non lo so, ma c'è. Ma come non lo sa? Non possono. No, in primo grado possono, in terzo grado. Possono? Sì, sì, è in terzo che non possono, poi dipende dai reati, naturalmente. Per esempio, il suo amico dell'Utri. Se uno ha avuto un incidente di macchina. No, certo. So. Però il suo amico dell'Utri, per esempio, si può ricandidare secondo lei? Ma non credo che ne abbia niente voglia. Beh, come no, lui lo dice per difendersi. No, ma no, secondo me lo dice per farvi arrabbiare. Ma no, ma è un amico nostro dell'Utri, ce lo dice sempre. Io mi candido per difendermi dai giudici. Così. Ah sì? Sì, solo per quello. Solo, per quello. Solo per quello. Perché così. Perché così. Beh, così non mi fottono, ha capito? Così non mi mandano in galera. No, lo slogan per lei. Così ha detto, ma l'ha detto più volte. Ma l'avvocato, ma lei è amico suo, lo conosce. Io sono buon conoscente suo, sono stato amico, diciamo, in contatto con lui 4 anni, 5 anni fa. Comunque sto PDL sono tutti un po' incapaci, non riescono manco a organizzare queste primarie, avvocato. Mamma mia, questo è un problema. È un problema, Cioè, lei come la vede? Ma io la vedo, ma adesso io faccio le domande a lei, non che lei fa le domande a me. Lei è un paravento. Lei ha capito tutto, ma ha capito tutto già. No, però scusi un attimo, questa incertezza è tremenda, no? Lo facciamo, vabbè, non le facciamo? Berlusconi abbiamo 100.000 voti al giorno. Ah, state perdendo, perdendo nel senso che lei ce l'ha, lei la testa del PDL ce l'ha o no? No, no, ma dico perdiamo nel senso se io fossi nel PDL nei vertici, che non sono neanche nella vabbè, base al momento. 100.000 euro voti. Io direi, dico, ma ragazzi, ma perdiamo 100.000 voti al giorno perché le primarie, le regole, ma ce ne vuole 3 di regole, ci vuole una regola, che certo. Dice? Chi ha tanti persone in Italia che lo vogliono candidare, raccoglie le firme e si candida. Seconda regola, il giorno in cui si vota, e terza regola dove si vota. Ma non è troppo presto il 16 dicembre, avvocato Samorì? Ma guardi, ma... Pure per lei, lei. No, per me no, forse è troppo tardi. Ah, devono essere organizzate già da tempo. Beh, ma scusi, qui ormai c'è bisogno di parlare proprio di programmi, di qui c'è l'Italia. Comunque, che sta stanando. Alfano ha detto basta Barzellettieri. Ha ragione. Cioè basta Berlusconi, dice, basta Barzellettieri come Berlusconi. Beh, un po'. Beh, ovvio. Come no. Basta scherzare, bisogna decidere. Ma è così, ha detto. Ha detto così? Sì, ha detto ma così. Era lei? Ma c'è stato uno scontro fortissimo, Samorì. C'è stato uno scontro. Ma non faccia, fatto, io non c'ero. Ma non faccia finta di non sapere. No, non c'era perché non è nell'ufficio di presidenza del PDL. Comunque, guardi che lei, secondo me, ha buone chance di vincere. Se Berlusconi. Davvero? Se l'appoggia a Berlusconi dicendo il mio candidato è Samorì, pensi questo colpo di scena. Lei lo c'è. Berlusconi dice il mio candidato è Samorì. Oh, viene una sincope a metà. A chi? A tutti, non a me. Ah, ecco, ai notabili, dice lei, no? Ai notabili. Però lei lo spera, dai. E pensi se mi dice, esce una notizia bomba, dice Cecchitto candida Samorì. No, quello lei se tocca se dice lì così. È finita. Lei è finito, avvocato, lei lo sa, no? Morto. Ah, non lo so, è un dito storico. Ma lei la prenderebbe adesso la tessera del PDL? No, è che ormai è morto. Perché adesso non c'è il tesseramento. Ma adesso è morto il PDL. Non è che si può prendere la tessera dei defunti, diciamo, delle cose che. Ma no, non è morto. Diciamo così che è morto. È abbastanza malato. Ma lei non ha mai pensato a un nome nuovo? Ma cosa vuole un nome nuovo? Non è mica un problema di nomi. Lei come si chiama? Giuseppe. Se dice di qui in avanti mi chiamo Alberto, cosa cambia? No, non cambia nulla. Non cambia nulla. Se vuoi cambiare vita, perché smette di fare il giornalista? Sì, ma bisogna far fuori anche così. Bisogna far fuori anche tutti quelli che fino adesso ci sono stati. Io le ho coniato uno slogan per la sua campagna elettorale. Grazie. Guardi che bravo, è bravo. Grazie. Ma allora mi vuole bene. Guardi che bravo, Parenzo. Le ho coniato gratis, che è così. Ci assuma a fare i suoi spin doctors. Ma che mi assumi? Volentieri. Parenzo, dimmi. Ma facciamo il contratto adesso. Vai, guardi che i contratti a me piacciono. Allora, Parenzo, lo slogan è questo: qui o lì vota Samorì. No, ecco, bocciato subito, guarda, bellissimo, subito. Io t'ho venduto. È profondo. Io t'ho venduto. T'ho venduto come un grande vota Samorì. Vai, qui o lì vota Samorì. Comunque, e poi magari ne vuole un altro? Me l'hanno detto oggi. Qual è? Che mi ha fatto vedere e gli dice: sei contro il PD, vota Samorì. Questo è buono, eh? Questo le piace? Le piace questo? Intelligente anche questo. Una cazzata pazzesca. Tra PD e UDC, meglio Samorì. Comunque, Crosetto ha detto: bellissimo, questo è proprio. Crosetto ha detto o io o lui, o Crosetto o Samori, così ha detto. Ah sì? Sì, sì. A me è meglio Crosetto, più esperto. Vabbè, vai, è ironico. Cifli, c'è sempre Samori. Sgarbi ha detto che c'era un ticket con lei. No, ma Sgarbi ha detto una cosa giusta in modo sbagliato. Ma non si mette mica con Sgarbi lei, Samori? No, ma non è che mi ha... Sgarbi è un uomo di grandissimo valore nel suo settore. Che ha diritto di avere uno spazio nel suo settore. Importante. Qual è il suo settore? Il suo settore è tutta l'arte, la creatività. Ah. Beh, cari ascoltatori della Zanzara, io vorrei farvi riascoltare, le parole del signor Favia, esponente del Movimento 5 Stelle, esponente autorevole, consigliere regionale in Emilia-Romagna, oppositore di Grillo, eccetera, eccetera, il quale dice che vogliono portare in Parlamento persone geneticamente modificate. Ascoltate queste parole. Pulire un po' il Parlamento e portarci delle persone che sono geneticamente diverse da quelle che ci sono state fino ad oggi, per moralizzarlo e portarle alle nostre istanze. Donadi, deputato dell'Italia dei Valori, cari ascoltatori della Zanzara, sì, ex naturalmente, bravo, hai fatto bene a precisarlo, oggi è uscito insieme al signor Formisano. Sì, allora, guarda, prima ero al mercato all'aperto, sì, qui a Roma. Ne parlavano tutti naturalmente, no? Tutti mi fermava la gente per strada, diceva Nello Formisano, dico, sì, sì. Dice Nello Formisano, dove è andato? Ma dico perché... Nello, cioè mi prendevano per la giacca, mi tiravano la giacchetta e dicevo, Valenzo, me lo dica lei, dove è andato Formisano? Donadi, l'IDV non ha più la pacatezza, però, caro Donadi, sei una bravissima persona, sei una persona gentile. Dov'era la pacatezza? Quando soprattutto il nostro amico Tonino parlava di stupratore della democrazia riferendosi a Berlusconi, dov'era il signor Donadi? Che ha bisogno oggi anche di equilibrio, anche di pacatezza, anche di sobrietà di toni. Tutto questo sembra purtroppo oggi non appartenere più al DNA di Italia dei Valori. Diciamo la verità, insomma, almeno per quello che riguarda il leader o l'ex leader, non c'è mai stata questa pacatezza, ma per carità, andava benissimo, però non è che uno si può svegliare all'improvviso, no? Beh, però uno dei top, l'abbiamo chiamato ma in aereo, magari dopo lo recuperiamo, il signor Vedani. Un deputato della Lega, senti che show sulla questione dell'inno, dell'obbligatorietà dell'inno cantato in classe, poi non sarà mai così naturalmente. Tema fondamentale, però voglio dire una cosa, è una stronzata o no questa cosa che è passata di rendere obbligatorio, non lo studio, il canto dell'inno, credo, no, o lo studio, che sai, il canto o lo studio? È giusto perché negli Stati Uniti... Ma che giusto, dai, il canto dell'inno, ma lascia perdere. È giusto perché negli Stati Uniti, anche nei suburbs, conoscono l'inno nazionale. Ma che c'entra, una cosa? Una cosa è lo studio, lo una cosa è il canto, cantarlo obbligatoriamente. È una cosa che fa alimentare il senso di appartenenza, no, bello anche per i giovani immigrati italiani, di cui racconteremo le storie in questa trasmissione, invece è una cosa bella. Senti cosa ha detto in Parlamento il mitico Vedani. Io credo che nemmeno Bocassa ha avuto il coraggio di fare e di dire quello che ho sentito in quest'aula. Bocassa, l'imperatore del Centrafrica, si credeva un po' Napoleone, era un po', diciamo così, leggermente egocentrico, che aveva un rispetto per l'opinione altrui talmente elevato che metteva i suoi detrattori, coloro che non la pensavano come lui, nel frigorifero e li mangiava poco a poco per lei, così faceva le dispense, la sua dispensa personale. Beh, siamo al top, col signor Bocassa. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Berlusconi, servono volti nuovi, le primarie non salvano il partito, Alfamo mi assumo la responsabilità di farle, non siamo barzellettieri, il Cavaliere fa marcia indietro, legge elettorale, si cerca l'accordo sul premio di maggioranza, il PD all'attacco, accordo tra PDL e Lega UDC è una truffa, Casini rivendica le mani libere. Il fatto non sussiste, assolto il governatore dell'Emilia Romagna Vasco Errani. L'inchiesta riguardava un finanziamento alla cooperativa guidata dal fratello. Draghi, accelerare le riforme per spingere crescita e occupazione, spread ancora alti per colpa dei governi passati, in arrivo nuove banconote in euro più sicure. Le sfide che attendono Obama: entro dicembre serve ridurre il debito pubblico senza aggravi fiscali per le classi meno abbienti, percorso difficile con la Camera a maggioranza repubblicana, contro i tagli le province ricorrono al TAR, minacciano di spegnere i riscaldamenti nelle scuole, Lupi incontra il ministro Grilli che si impegna per modifiche dal 2013. Compro oro, negozi che la crisi fa spuntare come funghi ma che a volte nascondono traffici illeciti, stroncata un'organizzazione accusata di riciclaggio e frode fiscale, sequestrati beni per 163 milioni. Obama, perché ormai l'America è meticcia, quindi si sono scelto uno dei loro, quindi è multiraziale, ha vinto questa America qua, che mi sta un po' sul cazzo, detto così, usare un termine diplomatico e raffinato. È stato un voto razziale. Berlusconi fece una gaffe, ti ricordi, con Obama? Parlò di sì, abbronzato, certo. No? Abbronzato. Ma direi che fu una delle occasioni in cui parlò meglio nella sua vita. Lo disse in maniera simpatica e detta, no, appunto, ha evitato accuratamente di usare un termine che può essere considerato offensivo, quindi non... Quindi sono stati un po' esageratini, questo sì, però difendere perché da quello che si sa, ecco, poi magari sono calunnie, hanno adottato, diciamo, delle misure, però la filosofia del differenzialismo che sta alla base, diciamo, di questa resistenza che c'è stata nei confronti, diciamo, della società multiraziale, all'epoca, io sarei stato sudista, diciamo, dei più sfegatati. Siamo qui, non siamo scomparsi, non è diventata Radio Padania. Abbiamo Marco da Bergamo. Marco da Bergamo. Meno Radio Ku Klux Klan. No. Marco da Bergamo, buonasera. Desideravo mettere l'accento sul suo modo di condurre la trasmissione. Sì. Siete delle persone che, secondo me, non vi disprezzo, anzi, sì, tutt'altro. E allora? Ma non avete rispetto per quelli che sono persone comuni come me, che telefonano, al quale continuate a dire e allora, ma cosa vuol dire? E poi mettete giù il telefono, sì, cosa che invece non fate, sì, con i politici e con gli uomini di una certa notorietà, sì, che partecipano alla trasmissione. A me piacerebbe molto stare a sentire molto il Borghesio e via dicendo, perché mi mette di buon umore, sì, perché è un agglomerato di inequizie che, sì, mi fa solo ridere, allora? Mi diverte. Ma avete, allora niente, lei dovrebbe condurre la trasmissione, se, sì, vuole avere rispetto per quelli che telefonano, sì, in un modo imparziale. È arrivato il professore. E non mettere giù il telefono, per esempio adesso dice sì sì ho capito, mettete. Pronto? Giù il, no? Sì, male fa il professore. È arrivato il professore. Pronto? Marco, avvocato, eccoci qui di nuovo. Un attimo solo, che sono sul portiere. Sì. Traudicipi di Efli. Pronto? Eccoci. Com'è la cosa tra PD? Traudici di Efli. C'è soltanto Samori. Vabbè, ma con Samori si possono fare tutti i giochi possibili. Se devi far pipì, vai da Samori. No, per quello che c'è. Bravo, bravo. Questo è quello che sono di pronto, sto mi dando il voto. No, ma no, avvocato, su, ma quello. Scusi, ma lei la offende? Quanto è ricco lei? Questo è importante. Ecco, quanto è ricco il suo patrimonio, a quanto ammonta? Io non ho quasi niente di patrimonio, ho molti redditi che spendo. Ma perché, capito, voglio stare bene. Cioè, va in banca, se uno va in banca, voglio l'estratto conto di Samori. Esatto. Se uno va in banca da me, non trova pochino. Quanto uno... ha di estratto conto? Quanto ha più o meno? Nei vari conti, quanti conti ha innanzitutto? Le posso dire. Allora, conti all'estero? Conti all'estero? Zero conti all'estero. Zero conti all'estero. Cioè, lei cos'ha di diverso da Berlusconi? Zero conti all'estero, già è una cosa diversa. Zero conti all'estero. Zero donne, no, anzi, una sola. Adesso, zero donne. No, zero donne nel senso, zero donne extra, dico, extra. Ah, extra, no, beh, insomma, zero donne, diciamo che non sono mica un santo. Ma ho capito, ma scusi, lei è sposato? Sì, sì, dico, io infatti ho una donna sola. Fedele dunque. Fedele, sì, dunque, questa è una differenza con Berlusconi, già è questa. Lei ha una donna, è sposato con una donna. Sì, sì. Questa è una differenza proprio capitale, che c'è una differenza. Ma cosa c'entra? Beh, questa è sostanziale. Beh, come sono più giovane, ho tempo per crescere. Vabbè, ho capito, però insomma, lei già questa è una grossa differenza. Un'altra differenza che ha con Berlusconi quale potrebbe essere? Vabbè, non so, che lui, cioè, chi è più ricco? Chi è più ricco? Ma faccia il rapporto, secondo me. Sì. Da 1 a 100, ecco. Ah, addirittura, lui è 100 volte più ricco di lei. Ma certo. Ma lei però è il terzo uomo più ricco d'Italia, credo. Io? Sì. No, magari. Guardi, questo l'ha scritto l'Unità. Ma mi ha fatto tanto rabbia perché non è vero. Ah, non è vero? Nel senso, magari. Magari. Senta, magari. Io ero il terzo uomo più ricco d'Italia, dice, non ero questore in ufficio. Vabbè, no, guardi, che perché dice quelli veramente ricchi non è che hanno bisogno di stare in ufficio. Ci vanno un po' meno quelli veramente ricchi. Però lei ci faccia un annuncio, dottor Samori, un annuncio ce lo deve fare, cioè la sua candidatura a queste primarie, se ci saranno. No, ma non lo so, ma scusi. Senta, facciamo un patto. Sì, facciamo un patto. Siccome escono prima o dopo, usciranno sti regolamenti. Ma i regolamenti che contano, no. I regolamenti. Ma no, dico, ci sarà una decisione se le fanno o no. Che no, quello pare di sì, Berlusconi ha detto di sì e le faranno. Penso di sì, prima di no, cioè non lo so. E lunedì sera, sì, se sono usciti sti regolamenti, mi chiamate, io vi dico tutto. Vabbè, ma i regolamenti, cioè, lo dico, ma... perché non lo so. Ma i regolamenti, ma che sono ste robe? No, ma i regolamenti sono sciocchezze, lo so anch'io, ma sa, dice, magari le fanno che dura 6 mesi e finiscono le primarie dopo. Ecco, ma lei si presenti così, dicendo: Dell'Utri è una brava persona. Vero? Prendo molti voti, vero? Si presenti così, ma lei lo deve dire. Dell'Utri è una... No. Io mi presento e dico: Crociani e Parenzo sono molto amici di Dell'Utri e mi hanno detto di dire che è una brava persona. No, adesso no, questa è diffamazione, scusi, questa è diffamazione. Anche la diffamazione, no, scusa, l'ha detto lei, dice lei, scusa, no, io è vero, siamo amici, è vero, sì, amici. Tu sei vero. Amico. Ma io non sono amico, non tu esagero. Sei amico. Ma scusi, lui è stato vicepresidente dei circoli di Dell'Utri, signor Samori, adesso mi sta dicendo a me che sono amico di Dell'Utri, guarda che è curioso. Ma no, lei mi ha detto di dire questa cosa, io la dico. La dica in campagna elettorale. Io sono Dell'Utri, è una brava persona, rivendico la sua amicizia, rivendico di essere amico con lui. Lo dica in campagna elettorale per le primarie. Io dico, mi hanno detto Crociani e Parenzo. Vabbè, cruciale. Lei deve dire, se è un uomo, cioè, retto come immagine, sì. Dell'Utri è una brava persona, più buono della comunità di Sant'Egidio. Mi sembra anche questo potrebbe essere. Ha fatto più bene lui della comunità di Sant'Egidio. Ecco, questo lei dovrebbe dire. Scusa. Posso dire questo? Oppure in 2 anni, sì, in cui ho partecipato ai circoli, sì, non ho mai, sì, visto tenere da Dell'Utri un comportamento che non... Vabbè, ma questo è scontato, è scontato. Ma insomma, io voglio capire una cosa. Secondo lei Dell'Utri si ricandida, si dovrebbe ricandidare o no? Immagini il suo centrodestra. Guarda, glielo dico. Lei lo ricandiderebbe o no? Ma no, penso che lui non abbia nessuna intenzione di candidare. Vabbè, ma questo... Senta, avvocato, io però noi nei prossimi giorni... Avvocato, non che ne abbia voglia di candidare. No, cioè nei prossimi giorni vogliamo un annuncio noi, per cui la Zanzara è casa sua. Sì, mi casa tu casa, come si dice? Mi casa tu casa, però venite a casa mia anche voi una volta. Noi sì, basta che c'è l'assegno per la consulenza, noi siamo a posto. No, ma di più. Grazie. Importo. Buona serata, buonasera. Grazie. Io la combatto da ore. Punge e poi fugge da me. E cerca il posto migliore per fare un passo. Oh Giannino, noi tifiamo per Giannino sempre e comunque, no Parenzo? Sempre e comunque. C'è... Meglio Renzi di Giannino, senti. Il mio programma deve cominciare a pagare lo Stato con quello che apri, la patrimoniale la deve pagare lui. Mi dispiace, questa è la differenza. Siccome in quell'appello di Montezemolo, Cito, eccetera, non c'è scritta questa roba, io l'ho chiesta. Renzi una risposta ce l'ha, per esempio, su questa roba qua, è chiaro. C'è gente che insieme a lui ha elaborato delle idee. Posso dire, mi sento meno lontano da quello di Matteo Renzi, di un pezzo di carta in cui non c'è scritto niente. Quella non è una chiamata alle armi della società civile, è una maniera per tragottarsi verso politica senza impegni. Durissimo con Montezemolo, il signor Giannino. Se Renzi vince, gli chiediamo di trattare con noi. Se Matteo Renzi vince, fermare il declino potrebbe dire: caro Matteo, ragioniamo insieme su un tavolo e accetti un'idea di società civile che ti si metta al fianco, anche se non viene al PD. Sì, sì. Ma torniamo al trash. Vedani della Lega, l'inno d'Italia è il plagio di una marcetta sarda. Tale musicista, Navarro. Navarro, credo che si chiami così. Novaro. Ammesso che sia un'opera d'arte, perché si vocifera che sia stato fatto un plagio da una marcetta, sarda, anche qui un tarocco, anche qui vi chiedo, questo musicista così illustre, così famoso, beh, ditemi un'altra opera per cui vada ricordato questo musicista. Per fare un passo. Beh, alla Borghezio, questo Vedani, no, Parenzo? Vedani, sì, un nuovo Borghezio, indipendentista, sindaco di un piccolo paese. È un legislatore, no? Sì, un deputato, certo. Quindi un legislatore. Un legislatore della Repubblica Italiana. Della Repubblica Italiana, esatto. La quale ha come inno ufficiale l'inno di Mameli. Io no. Ecco, questo giusto per informare chi ci ascolta. Però, questo signore, devo dire, che dobbiamo anche chiamare onorevole, perché sì, dobbiamo Vedani, anche per rispetto. Anche Mughini, il 13 maggio del 2011, disse Mughini. No, guarda, da quando si è occupato di BB, signor Mughini, e mi ha attaccato a me dicendo: ma voi lo pagate, Parenzo? Ecco, lui ha scritto un articolo su Libero, è giusto ricordarlo, bisognerebbe anche chiamarlo per chiedere conto di questo. Ha scritto un'intera pagina su Libero dedicata al suo cane BB. Ecco, dopodiché di tutto quello che ha detto Mughini. No, senti che cosa diceva sull'inno a maggio del 2011. La come cantante non valgo un cazzo, esattamente quanto questa canzone. No! Alla Zanzara, Va bene, 800240024, Antonino da Roma, buonasera. Antonino? Mi hanno segnalato? Dica, che ti hanno segnalato, Parenzo? Una canzone molto molto bella, divertente, sulla precarietà. Sì, Dio. Che si chiama... Sì, dimmi. Che dai. Si chiama Precarietà, che adesso ti giro. Va bene, me ne frego, Antonino da Roma. E poi raccontiamo storie di migranti. Sì, buonasera da Roma. Cruciani, buonasera Parenzo. È un piacere sentirvi. Vada. Mi accompagnate tutte le sere con piacere. Va bene. Sono contentissimo. Volevo fare una precisazione, Cruciani. Sì. Su Fabia, lei ha mandato questo, quindi dopo averlo dichiarato, ha detto geneticamente diversi. Ma sì, geneticamente diversi, adesso magari ho sbagliato io a dirlo, modificati, geneticamente diversi. Beh, comunque sì, è la parola ma è la parola geneticamente che conta. Sì, ma probabilmente è un dire di essere naturalmente onesti. Ma certo che è così, è la parola geneticamente che non torna, che non va. Cioè... Sì, non può esagerare, però insomma diversi e modificati di solito mi fa pensare al mais come elemento. Ma no, geneticamente diversi, non modificati. Simone, provincia di Milano. Grazie Antonino. Simone, provincia di Milano. Sì, buonasera dottor Cruciani. Caro Simone, vada. Niente, innanzitutto permetta di dire buona Padania a tutti e condivido al 100% le parole di Borghezio in merito Obama. Scusi un attimo Simone, buona Padania a tutti, c'è chi si può permettere di dirlo, ma non è che uno apre come lei dice buona Padania, perché noi ci mettiamo a ridere. Ma io sono padano e quindi... Buona Padania, ma la Padania non esiste, c'è questo piccolo punto, c'è questo piccolo dettaglio, esiste. Tutti i giorni alle 12:15 fa il gazzettino padano, quindi ma questa è la vecchia battuta che ha fatto Buonanno, non c'entra niente il gazzettino padano con la Padania. Le posso dire una cosa, mi dica. Io ad esempio sono favorevole allo studio dell'inno italiano, sono orgoglioso dell'inno italiano, meno comunque, male, perché nonostante mi piaccia la macro regione della Padania, mi sento italiano, orgoglioso di esserlo e niente, però volevo io aggiungerei che oltre allo studio dell'inno italiano sarebbe anche opportuno che i ragazzi nelle scuole, a partire dalle elementari, medie, superiore comprese, quando entra il professore in classe, sarebbe bello che si alzassero in piedi e gli dicessero buongiorno professore, e quando il professore gli dice buongiorno a voi, gli alunni si siedano quando il professore dice seduti. Ecco, quello secondo me potrebbe essere anche una base di buona educazione. Non ho capito nulla, Simone. Vabbè, comunque va bene. Insomma. Questa è una piccola divagazione. In merito ad Obama, io ripeto, sono pienamente d'accordo con Borghezio, perché secondo me Obama è un presidente che quando si è presentato che ha fatto crescere la gente, lo venerava come il messia. In 4 anni alla Borghezio non ha fatto un cazzo, se non si può essere Borghezio in minore, ha capito? Lei sta facendo il Borghezio in minore senza averne la caratura, senza averne la statura. Questo è il mio pensiero. Infatti, Simone, ripeto, arrivederci. Marco da Massa, uno dei pochi, arrivederci. Marco da Massa. Salve, buonasera. Dica. Che chiamavo in merito al discorso di Borghezio, ma tutte le sere ci dovrebbe essere Borghezio, ci mette di buon umore. Ma ha sentito ieri sera, cioè ha sentito sicuramente. Beh, ecco, certo che ho sentito, ero qui. Cioè. Esatto, Tremonti e l'altro come si chiamava? Che c'entra Tremonti? Ieri sera Tremonti che aveva suggerito lui a Obama cosa dire, cosa non dire. Ah sì, Martino, perché? Cioè, lì fa cadere anche le braccia. Borghezio li mette di buon umore, poi si può condividere o non condividere niente, ma il suo modo di fare Guascone è quello che ci fa stare almeno 10 minuti bene. Bisogna vedere se ci crede anche alle cose che dice. Questo non è il problema. Non è solo il Guascone, grazie, no, Giuseppe. Io credo che neanche lui ci creda più a queste cose. Però può darsi, può darsi. Temo di sì. Giuseppe da Isernia, buonasera, grazie Marco. Vada Giuseppe, Isernia. Niente, Antonio da Vicenza. Buonasera, Cruciale, buonasera. Buonasera, buonasera, dica. Volevo dire a proposito dell'intervento che va a fare evento, pensavo che lei ha veramente detto delle cose pensate. No alla guerra. Ma chi? Ma chi l'ha detto? Sento di nuovo a chi l'ambulanza e tutto il resto. Ah, l'avvento, dice lei, l'avvento, sì. Ha detto delle cose sensate. Le guerre esistono perché ci sono. Vabbè, adesso non è il caso di fare, scusi, l'esegesi delle parole dell'avvento. Ma perché Parento non dovrebbe essere d'accordo con l'avvento? Ma perché che ne so, ci deve essere la guerra e tutto il resto. Vabbè, ma insomma, non è quello il punto, caro Antonio. No. Mi pare che non sia questo il punto. Mi pare, mi sembra di capire che non sia questo il punto. L'avvento d'accordo con se stessa prima poi. Pronto? Adottare. Sì. Pronto? Sì, allora? E allora c'è da dire che prima di tutto essere omosessuale non è una cosa sbagliata, però penso che sia una deviazione della società, è sì. La società che impone certi stereotipi, sì. E allora certo. Francia e tutto il resto si è adottato già la legge che permette l'adozione dei bambini da parte dei omosessuali e questo fa sì che nel futuro sempre più omosessuali, persone che non hanno più i vecchi valori adotteranno i bambini e poi i bambini cresceranno sempre con un senso di direzione sociale che hanno visto in famiglia. È come uno shock, è stato uno shock. Eccoci qui, 19.45, è con noi un ex Italia dei Valori da oggi, Agnello, detto Nello Formisano, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Bene. Torre del Greco, classe 1954, lei ha militato anche nel Partito Comunista, poi è stato nella Margherita, o sbaglio? Partito Comunista, poi Alleanza Democratica, Italia dei Valori. Sì. Asinello di Prodi, di nuovo Italia dei Valori. Mazza, come mai due passaggi nell'Italia dei Valori? Perché ero tra i fondatori a San Sepolcro nel 98. E perché se n'è andato la prima volta? Prego? Perché se n'è andato la prima volta? Me ne sono andato nel 2000 quando Di Pietro propose di votare contro il governo Amato. Ah, quando propose di votare contro il governo Amato, che lei sosteneva evidentemente. E certo, sì. E perché si è riconciliato poi con Di Pietro? Perché Di Pietro nel 2004 sostenne la tesi che sostenevo io, che bisognava stare in coalizione, perché nel frattempo vi furono le elezioni del 2001, dove l'Italia dei Valori, come adesso, si collocò fuori della coalizione e io invece sono per la coalizione di centrosinistra. Oggi l'hanno aspettata in un circolo a Napoli, ho letto da qualche parte, l'hanno trattata a malo modo. Che è successo? No, ho sbagliato io. Perché? Siccome stamattina avevo fatto una lettera a tutti gli iscritti nella quale li ringraziavo per l'impegno che tutti avevano profuso, cioè, tornando da Roma pensavo c'era una riunione già programmata, pensavo di salutarlo, salutare tutti vis-à-vis, diciamo, vis-à-vis, come si dice? È stata letta come una provocazione, appena l'ho capito. Ma che volevano fare? La volevano aggredire, no? Assolutamente no. Qualche verbalità o verbosità di troppo. Che le hanno detto? Traditore, Badoglio, pure a lei, no? No, Schettino. Schettino le hanno detto. Uno mi pare che abbia detto Schettino. Lasci la barca mentre sta crollando, mentre sta affondando. Schettino, beh certo. Però c'è impliciti il riconoscimento dell'affondamento della barca. Beh, questo è vero, quando dicono Schettino, uno riconosce e vorrebbe rimanere là, mentre invece lei via dalla barca mentre affonda, no? No, ma io è un anno che dico che sta sbagliando tutto l'Italia. Beh, adesso è un anno, non si è sentito niente, però fammi sa. Non si è sentito niente, dice un anno che sta dicendo. Ma non... È niente di meno, ho detto che era sbagliato attaccare il Presidente della Repubblica. Sì. In privato mi davano ragione, in pubblico continuavano ad attaccarlo. Ma non si è fatto sentire molto attraverso i famosi media lei, però, signor Formisano. Non mi pare che abbia espresso posizioni molto forti contro di Pietro quando attaccava Napolitano, eccetera, eccetera, eccetera. Forse se l'è perduta lei. Ma forse l'ho perduta io, sì, può darsi, può darsi l'ho perduta io. Però, insomma, Parenzo, tu che sei un attento osservatore dell'Italia dei Valori, hai sentito parole forti del signor Formisano? No. E ci siamo ignoranti tutte e due. Siete perduti. Mai sentite, francamente. Però, vabbè, no, ma per carità, magari può essere successo. Adesso faccio una ricerca dell'archivio dell'Ansa, ma... Fai una ricerca. Senti, signor Formisano, io voglio capire una cosa, ma Barbato, signor Barbato, lo conosce lei, campano come lei? Dice che lei è una munnezza, ha portato l'infezione del partito, attraverso di lui è entrato nell'Italia dei Valori De Gregorio, tutta la munnezza che c'è nel partito, una munnezza, insomma, ha capito? Se fate la ricerca in Ansa, sì. Troverete anche un'Ansa di Di Pietro che dice De Gregorio l'ho voluto io. Lei non ha mai voluto De Gregorio? Per la verità, una settimana, 10 giorni prima delle elezioni, sconsigliai a Di Pietro di candidarlo, ma non per i fatti che sono avvenuti dopo. Sì. Perché a Napoli erano venuti da me dei comitati dei creditori, perché questo aveva truffato delle persone, aveva preso soldi, e mi avevano detto che se, siccome si vociferava di questa candidatura, se lo avesse candidato all'Italia dei Valori, loro pubblicamente avrebbero detto chi era il suo soggetto. Ma lei le raccontò queste cose a Di Pietro? Glielo giuro sul mio onore, sì. Sì. E gli avevo detto di non candidarlo, però poi andò di questo. E Di Pietro perché l'ha candidato? Ma credo per la verità che in quella occasione magari potessero servire al Senato i voti di De Gregorio. Beh, cioè i voti per una entrare... Una scelta abbastanza per entrare elettoralisticamente cinica, ma... Elettoralista. Vabbè, lei che però non mi pare che si opposa a questa candidatura, anche qui, nessuna grande battaglia. Cioè, anche in pubblico, però in privato magari gli ha detto, Formisano però fa politica. No, ho aspettato 3 anni che Di Pietro dicesse che era stato lui a volerlo. E invece? Prego? Non l'ha mai detto, dice lei. No, no, l'ha detto, eravamo a Benevento. Vabbè, non se n'è accorto nessuno anche qui. Comunque, fu lui fortemente a volere, Barbato sbaglia, non sono stato io a volere, anzi, disse a Di Pietro non lo candidare. Il signor De Gregorio, no? Sì, gli avevo detto quali erano i motivi per i quali mi sembrava inutile. Cioè, lei aveva detto erano che erano diversi dai fatti che poi De Gregorio ha fatto capitare. Lei raccontò a Di Pietro che è una specie di truffatore, insomma, questo era... No, no, un truffatore, non una specie, un truffatore. Un truffatore. E Di Pietro se n'è fregato, diciamo. Diciamola tutta. Fine. Candidato, insomma, chi fa le liste per statuto è il presidente del partito. Appunto, no, ma per carità, ma questo... Sto cercando Formisano e mi dice errore, come mai? No, senta, ma voi non c'è bisogno di un altro partito, però, caro Formisano, perché un altro movimento politico, un altro partito? Lei e Donati e altri, non so, ma innanzitutto uscite solo voi due per adesso? Sì, per adesso siamo usciti solo noi due, non abbiamo un problema numerico, noi abbiamo posto un problema politico. Credo si sia capito. No, beh, questo è chiaro. Lei vuole stare nel centrosinistra, vuole l'alleanza col Partito Democratico. Ma perché adesso? No, adesso lui dice che da 3 anni, da quanto? Da 1 anno, da 2 anni? Come? No, lei sta dicendo, da tempo io dico a Di Pietro che no, di non attaccare Napolitano, di non attaccare il Partito Democratico, che dobbiamo stare in questa alleanza. Insomma, Di Pietro alla fine ha sfasciato tutto, si può dire ha sfasciato l'Italia dei Valori? Comincio a temere che Di Pietro stia vivendo la stessa fase che visse tra il 2000 e il 2001, quando poi fu costretto ad andare da solo alle elezioni, senza eleggere nessun parlamentare, e trovandosi un gruppo dirigente selezionato alla Carlona. Cioè. Ho capito, ma insomma, sta portando allo sfascio l'Italia dei Valori? E beh, basta guardare i sondaggi degli ultimi mesi e vi rendete conto anche voi che non fate questa attività se dall'8% scende a 2%. Ma perché lo dite, guarda, Formisano, Nellino Formisano... No, amico, Nello Formisano, perché Nellino? Nello Formisano, detto Agnello, detto Nello. Amico mio, perché tutto questo dopo la famigerata intervista a Report? Perché? Ma guardi, l'intervista a Report non toglie, non mette niente rispetto a fatti che erano già stati portati a conoscenza dell'opinione pubblica. Ma tutto parte da lì però. Tutto parte da lì però, cioè viene sputtanato da una trasmissione importante, escono fuori certe cose che per carità, come dice lei, erano già note, però Di Pietro dice dopo che l'Italia dei Valori è morta e defunta e sepolta. E questo è il problema. Ho capito, però capire perché l'Italia dei Valori è morta e defunta è per colpa di chi? Lei dice dal per colpa dal mio punto di vista è per una serie di errori politici stratosferici. Cioè, il primo errore politico qual è stato? Quello di attaccare Monti a sprombattuto? Qual è stato? No, il primo errore politico secondo me è stato quello di fare cose diverse da quelle che si dicevano. Legislare, cioè? Politicamente, dire di voler stare nella coalizione di centro-sinistra e attaccare Bersani ad ogni piesso spinto. L'altro errore politico insuperabile è stato quello di attaccare l'arbitro, cioè il presidente Napolitano. Io sono fra quelli che sostengono che meno male che l'Italia ha avuto un presidente come Napolitano. Metti insieme tutte queste cose, metti insieme che poi da ultimo in Sicilia, nonostante l'aumento dei voti, sei diventato irrilevante, tu stai costruendo un'Italia dei Valori che non vuole candidarsi al governo, ma vuole candidarsi all'opposizione. Bene, chi lo vuole fare lo faccia, io non lo voglio fare. Ma Grillo, lei come lo considera? Mi dia una definizione. Lo considero bene, nel senso che la sua funzione è straordinaria. In altri pezzi del mondo, chi protesta fuori delle istituzioni può arrivare anche a forme di violenza. Grillo invece prende la protesta e la porta nelle istituzioni. Ho capito, però... Ovviamente si candida all'opposizione, però. Ho capito, ma lei che pensa di Grillo? Cioè, come... cioè di Pietro addirittura vorrebbe... No, non dico la fusione, ma insomma ormai resta una specie di alleato per Di Pietro, mentre Grillo non lo vuole molto, diciamo, no? Infatti, sì. Cioè? Ma io credo che Grillo perderebbe la sua ragion d'essere, il suo core business, se si alleasse con uno soltanto dei partiti precedenti al suo ingresso in politica. Lui ha il successo che ha elettoralmente, e non solo sondaggisticamente, perché fa un ragionamento contro l'attuale sistema dei partiti e mette nelle istituzioni forze fresche e giovani che, meno male, che fanno un percorso democratico e vengono nelle istituzioni. Senta, lo sai che ha detto Belisario? Signor Belisario, lo conosce Belisario? Come non lo conosco? Felice, sono felice. Che meglio scorie, meglio scorie fuori dal partito. Le scorie, vi ha chiamato scorie, eh? Questa è una valutazione di Belisario della quale terremo conto, non mi sento tale, che devo dire? Non si sente scoria, ma ha un cerchio magico anche Di Pietro? Di cortigiani? Certo che ce l'ha. Di cerchi di cortigiani? E purtroppo per lui sì, e sono quelli che lo inducono a sbagliare, no? Come Berlusconi, dice lei? Penso di sì, le posso dire una cosa? Come Bossi? Sincerità. Sì. È finita l'epoca dei partiti con, nei quali il simbolo prevedeva il nome del fondatore. Vale per Berlusconi, vale per Fini, vale per Casini, in certo qual modo vale pure per Di Pietro. Ecco. Di Pietro ha detto che lo avrebbe tolto dopo le elezioni, in ogni caso. Io continuo a non capire però, perché mi tocca prendere le difese di Di Pietro per una ragione semplice, perché difendi non Di Pietro, è possibile che tutto questo vaso di Pandora si sia aperto così all'improvviso. Cioè, queste parole così dure sue e anche dell'ex capogruppo non le abbiamo mai sentite. E vabbè, succede a un certo punto. Ma non è che succede, cioè io capisco tutto, non è, lui dice succede, il cinico Kim Jong della zanzara dice succede, non può succedere, è strano. Comunque, lei ci tiene a rientrare in Parlamento alle prossime elezioni? Guardi, io mi ritrovo nella previsione che fa Bersani dei 15 anni, io la condivido, dopo 15 anni si è già dato tutto quello che... Cioè lei non si ricandida? Prego? Lei non si ricandida? Ma questo non lo decido io. No, ma come non le decide lei? Ma che vuol dire? Non si Io aspiderei. Allora, se sincerità per sincerità. Assolutamente. Eh? Assolutamente, sincerità. Aspirerei a ricandidarmi, sì. Oh, benissimo. Col PD? Io penso che sarebbe più utile per la coalizione costruire a fianco al PD, a fianco un'altra lista che in qualche modo... Torno da lei tra un attimo. La Zanzara. Siamo qui 800 24 00 24. Nel PDL ne stanno accadendo veramente di tutti i colori. Comunque pare che abbia vinto la linea Alfano, eh? No a barzellettieri e gelatai, ci facciamo ridere dietro e ci dobbiamo decidere. Barzellettieri ha ragione, si chiudere sono frasi impresse su questo, non bisogna essere coi paraocchi e ridere. Ma Di Pietro, caro Formisano, le barzellette non le dice? Sì, ogni tanto sì, ma Di Pietro ha diversi aspetti. Per esempio a fine giornata lavorativa la sera, quando qualche volta si è stati tutti insieme a cena, diventa un altro uomo, un'altra persona, è simpaticissimo. Vabbè, perché non è che quando è che è antipatico invece? È antipatico quando si arrabbia, quando è teso, quando è un padrone, ha questa cosa del padrone, del no, del... sì, un po', diciamo. Però io dico una cosa, il cavallo di razza è ombroso, diciamo noi, no? Quindi si può riconoscere. È un cavallo di razza, comunque. È un cavallo di razza, ma non c'è dubbio. Ma quanto è stato lei con Ormai al tramonto, però, Onestamente sì. Onestamente al tramonto. Ma lei... quanto è stato lei con Di Pietro, scusi? Beh, tanti anni è stato quanti con Di Pietro. Quanti anni è stato con Di Pietro? Dunque, dal 98 al 2000. Sì, due anni. E poi di nuovo dal 2004 ad oggi. Dunque, otto anni più due, una decina d'anni, lo conosce bene, una decina d'anni. No, allora. Tenga conto però che negli ultimi quattro anni io non facevo parte dell'ufficio di presidenza perché non essendo più capogruppo... Non era nel cerchio magico. Ma oggi lo definirebbe bollito? Beh, questo lo dite voi. No, no, lo chiediamo a lei. Lo chiediamo a lei. Come io, io per la verità penso che sì. Tutto quello che faccia riferimento al carisma del capo non serve più all'Italia. Vabbè, questo è un ragionamento diciamo più filosofico, va bene, ci sta pure. Però sì. Guardi che non è così, eh. Alla fine si ha sempre bisogno di un leader carismatico, non è vero? Cioè, non, cioè ci sarà sempre bisogno. Quelli che una volta definivamo collettivi. Io penso che l'intelligenza collettiva sia sempre superiore a qualunque intelligenza individuale. Vabbè, questo vabbè, però comunque conta anche il carisma di un capo, altrimenti la politica è fatta di queste cose. Cioè, ma certo, ma il carisma ha visto del il capo, presidente in America, di... cioè, non è che le inventiamo noi queste cose, no? Chiunque... Il carisma del capo conta nel momento iniziale, cioè, ma il capo buono è quello che capisce che quando è superato il momento iniziale deve lasciar correre poi i cavalli cioè, che ha costruito. Bersani, dal punto di vista politico, è un gigante rispetto a Di Pietro? Bersani, secondo me, ha... una strutturazione politica sicuramente superiore a Di Pietro. È stato al governo due volte e ha dimostrato di saper sì. Governare. Oggi sicuramente nel panorama di centrosinistra per quel che riguarda sì. Formisano è il meglio in campo. Il meglio in campo, il, meglio del bigo- il più bello del bigoncio, come ha detto Berlusconi di Alfano. Ma posso dire una cosa? Sì. Voi immaginavate che Hollande... potesse riuscire così bene come è riuscito una persona che non veniva visto come leader, era l'esatto contrario del capo carismatico, era quello che in qualche modo metteva in discussione i cliché, è riuscito a vincere. Cioè lei dice Bersani il grigio al potere, potrebbe arrivare al potere. Io sento male per pronto. No, dico Bersani potrebbe essere il grigio che va al potere, no? Se, diciamola così, rende l'idea di quel che volevo dire io. Parenzo che c'è? No, voglio dire, la cosa, c'è una cosa di fondo, a parte che sono, c'è D'Alema che ha fatto una dichiarazione terribile, veramente molto divertente, cioè mentre c'è in questo momento Renzi che sta sì. Inaugurando il suo comitato a Roma, sì. Giusto per dare qualche notizietta, c'è D'Alema che ha detto, sulla strada di Renzi si va al disastro politico. Cosa, lei andrà a votare alle primarie del... Allora, questa però sta battuta me la faccia fare, siccome le previsioni di D'Alema non si avverano mai, meno male. Quindi meglio Renzi? No. Meno male che non si vada al disastro politico, perché se lui ha detto che si va al disastro politico e non si avvera mai quel che dice lui, significa che non ci sarà il disastro politico. Se ne azzecca una D'Alema, Senta una cosa, ma lei va a votare alle primarie del centrosinistra? Guardi, fino a quando ero dirigente dell'Italia dei Valori avevo un problema. Vabbè, certo. Il mio partito, pur avendo chiesto... Adesso non c'è... Non adesso è più. Sono libero, lo farò senz'altro, e lo farò per Bersani. Va a votare Bersani. Sì, però, sì, scusi, nessuno mi toglie però dalla testa quest'idea, caro Formisano. Perché? Ma in politica, Parenzo, ci sta anche questo, no? Caro Nello. Cioè, che lei, insieme a Donati... lei ha incontrato Bersani in questi giorni? Ma Bersani lo incontro ogni giorno in Parlamento. Insomma... L'ultima volta che l'ho visto fuori del Parlamento è stato a San Giorgio a Cremano dove abbiamo vinto le però, elezioni. Scusi Formisano, mi sa che voi un seggio l'avete trattato, su, mi dica la verità. Io la rielezione con Bersani, la possibile rielezione, poi naturalmente bisognerà vedere la legge elettorale, però siamo d'accordo con Bersani che magari insomma facciamo un nostro movimento e poi entriamo diciamo nel Partito Democratico. Su, cioè devo dire che abbiamo trattato un percorso politico invece? Cioè? Quello di costruire una lista in tutta Italia che se possibile, e io credo sarà possibile, sia di sostegno al centrosinistra e mi auguro a Bersani che nel frattempo... Scusi, ma quante liste ci devono essere col centrosinistra? Secondo me almeno quattro. De Magistris, pare che voglia fare la sua. Signor sì. De Magistris. Poi i socialisti, no? No, i socialisti credo dentro che il PD. Dentro il PD. Allora, il mio schema è questo, Partito Democratico. Il suo schema, sì. Poi? Sinistra Ecologia e Libertà. Sì. Dopodiché, se come pare l'UDC è fuori dalla coalizione, occorre comunque fare qualche cosa di moderato di sinistra. E fate penso voi. Penso qua a quello che è avvenuto a Torino quando Fassina ha vinto al primo turno con i moderati. E lo fate voi, lo fate voi. Ma no, io sto facendo un ragionamento vabbè. Di coalizione. Vabbè. Ho capito. E poi c'è tutta questa nuova galassia di fermento civico sì. Che in tutta Italia sì. Ha dimostrato che esiste, sono persone che vogliono contare, che non vogliono la maglietta della Juve, dell'Inter o del Napoli, sì. Vogliono contare per le idee che portano e quindi occorre che ci sia qualcuno in grado di federare tutto quel civismo che vabbè, ha dato tanto alle ultime elezioni. Civismo. Vabbè. Formisà, il problema è appunto, voi volete fare una lista, lei e Donati più chi? Siete in due per adesso, due, dos. Ma noi la vorremmo fare con tanti elettori, per la verità. Dos, vabbè, comunque, voglio fare una lista. Poi vediamo, insomma, voglio fare una... che il movimento lo presentiamo a fine. Ma se sto movimento non cresce, che fate? Vi candidate col PD se il movimento non cresce? No, il movimento cresce, stiamo subito. Vabbè, ma quella è una previsione. Quanti voti porta lei in campagna? Per esempio, lei quanti voti ha in campagna? E come faccio a saperlo? No, i suoi. No, i suoi. Le posso dire quel che aveva l'Italia dei Valori, ma non fa testa, no? No, ma i suoi. Lei quanti voti pensa allora, di avere? Allora, io sono stato eletto nel 2001 su un collegio circa 50.000 voti. L'ultima elezione a preferenze l'ho fatto quando ero giovanissimo, fu una testimonianza. Cioè, quanti voti può portare in campagna lei, diciamo, al centro-sinistra? Quanti voti ha in dote? Ha fatto un calcolo, adesso io Formisano con una lista vera credo non meno di 100.000 voti. 100.000 voti. Beh, insomma, per Bersani Valenza è buono, 100.000 voti, cioè beh, in campagna. Sono una bella dote. Ma insomma, in Senato, per esempio, contano se ci sarà questa legge elettorale. Ma voglio sapere, ha già pensato a un nome a questo movimento, a questa sì, questa sì, cosa? Sì, allora io sono fra i fondatori di un giornale online quotidiano. Sì. Che si chiama, lo può trovare sul sito, già da marzo. Si chiama? Si chiama Riformisti e Moderati per il Centro-Sinistra. Troppo lungo, Formisano. Riformisti e Moderati perché guardi, io sono anche contrario alla sinteticità della comunicazione politica. Ho capito. Quindi che non dobbiamo fare spot, dobbiamo ragionare. Come lo chiamiamo sto movimento? Riformisti e Moderati? Sono lo digito. Non ci abbiamo ancora pensato perché aspettiamo il contributo di tanti. Comunque il termine riformista c'è sicuramente. Sicuramente. Il termine temperato, moderato, veda lei. Ma Bersani lo sa, sì. Ma credo che l'abbia capito, vedo che quando come l'ha capito? Online, il giornale lo legge. No, ma ho capito. No, voi gli portate il giornale? Noi facciamo sul giornale online che è un ma non c'è, non lo trovo. E allora non è che lo portate. Moderati? Allora lo trova sul sito moderatiriformisti.it. Moderati e riformisti? No, senza la E. Ma scusi, da quanto tempo pensavate di andarvene allora? Da quanto tempo pensavate di andarvene? Ma guardi, io quando ho contribuito a fondare questo giornale ero già in disagio. Sì. Ed era marzo di quest'anno, credo. Ah, da marzo, è da marzo che pensavate di svignare. No, ma no, Donati, no, io non è che siamo lei conclusioni. Non siete una coppia di fatto, insomma. Non siamo una coppia di fatto, siamo una coppia politica. In questo giornale troverà anche altri parlamentari nel comitato di redazione. Troverà Giorgio Benvenuto. Ma i riformisti vogliono i matrimoni omosessuali? Ma io sono d'accordo per il matrimonio omosessuale. E l'adozione? Anche per l'adozione, sì. Anche per l'adozione dei gay, sì, sì. Beh, questo è buono, Parenzo, Questo è buono, signor Nello Formisano. Perché lui è riformista, è moderato, ma è anche riformista, quindi è evidente che poi è moderato, vuol dire che dice le cose con moderazione, con tranquillità. Certo. Però è anche riformista, quindi dice matrimoni gay, benissimo, perché sono riformista. Però lo dico a bassa voce, senza urlare, perché sono moderato. Intanto al PDL, conferenza stampa congiunta Alfano-Berlusconi, ci saranno le primarie con 5 garanti. Sto seguendo. Un nuovo nome del partito. Dunque alla fine Berlusconi si è un po' piegato, dopo aver detto no, le primarie non sono così sicuro, eccetera, eccetera, sceglierò 5 garanti. Vabbè, insomma, vedremo, la barzelletta continua qua. Ma senta, senta, intenzione di mettere nel partito anche qualche migrante? No, ma lasciamo perdere il cerchio magico del cerchio magico di Di Pietro, chi fa parte? E diciamo che l'ultimo ufficio di presidenza io l'ho sempre visto un po' come cerchio magico, insomma, ad eccezione di alcuni, e sono poi le persone che in qualche modo finiscono col condizionare le scelte del presidente. Io mi ricordo che nel 2007 quando lui fece il primo attacco, dal mio punto di vista ingiustificato, al capo dello Stato, lui il pomeriggio al partito mi disse che riteneva di aver sbagliato. Vabbè, ma comunque, insomma, sto cerchio magico, chi c'è in questo cerchio? Per esempio, troppi parenti ha messo dentro, dal figlio. Troppi parenti, Ma perché non gliel'ha detto lei? Chi glielo dice? Non è che uno alza il telefono, Di Pietro, hai messo tuo figlio, hai sbagliato, oppure hai messo... No, attenzione, la vicenda del figlio è diversa. Mica è stato eletto come la Minetti. Il figlio si è candidato e poi mi deve spiegare perché i figli non possono candidarsi. Lì ha preso le preferenze. E allora chi è che ha messo? Il cognato? Lì c'è un problema relativo al rapporto di parentela fra Di Pietro e Cimadoro, Cimadoro e Rota, insomma, tutte queste cose messe insieme poi danno un'immagine diversa dalla realtà, sono tutte bravissime persone, però quando all'esterno vengono dette come... Ma le case? Le case? Troppe case? Questa cosa secondo me... si gioca troppe commistioni, però troppe commistioni, sì. I soldi del partito che servono a pagare in alcuni momenti i mutui, c'è, no? C'è stato un po' di casino anche là, dai, su. O no? Io penso che l'errore politico consistito nel fatto che non si sia divisa la funzione di controllo da quella di amministrazione. Te pare poco. Lo so, no, è quella che ma nessuno ha detto nulla. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. Como una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa mucho. Sino Clotilde da Roma, Berlusconi sta parlando, sentiamo. Da parte nostra, penso molto producente andare a criticare ciò che c'è stato. Noi faremo la nostra campagna elettorale sui contenuti e soprattutto sul futuro. E quindi Berlusconi ha detto che non c'è mai stato nessun contrasto con Alfano. Ti prego, ridi Parenzo, ridi, che non c'è stato mai nessun contrasto con Alfano. Clotilde, dica. Adesso dirà che Babbo Natale arriva anche a giugno, dai, vedrai. Su, ma non si può essere così ridicoli, dai. Non si può essere così. Ma cosa, dai, è successo oggi? Come mai hai riacquistato lucidità? Ma no, ma io sono sempre stato lucido, ma non si può negare l'evidenza. Poi dice: non ho mai pensato a una mia lista. Mai, ha detto di non aver mai pensato a una sua lista. Ma ti rendi conto? Comunque, guarda, oggi è accaduta un'autentica vergogna. Tu sai che io in genere i magistrati tendo a difenderli, a non attaccarli. Ma questa cosa del signor Daccò, coinvolto nello scandalo di Milano, della regione Lombardia, venga portato in tribunale con le manette, con gli schiavettoni ai polsi, sì. Su questo bisogna dar ragione al suo avvocato, che ha detto che è una cosa che viola i diritti dell'uomo. Cioè, Daccò, per quanto possa essere detenuto un criminale, sta scontando il carcere, sì, eccetera, sì. Non può essere sottoposto a questa gogna di fare la camminata fino al tribunale con gli schiavettoni come fosse un mafioso qualunque, un criminale pericoloso. Cioè, questo è ancora Berlusconi. Vista dell'interesse generale, tutti, nessuno escluso, agiscono in vista di un loro interesse particolare che si identifica sempre con le ambizioni politiche dei loro piccoli leader. Io ho provato, per esempio, a fare una riforma della giustizia quando ma sta attaccando la sinistra dicendo che pensano solo ai loro interessi particolari. No, ancora con la riforma. E dov'è la notizia? Ma è sempre la solita litania, la solita solfa. Comanda lui. Secondo me non è neanche in diretta. Lui registra questi messaggi. No, è in diretta, è in diretta. Ma no, la verità è a casa sua, tranquillo. Ha mandato questa. Adesso roba ti qua, presento un personaggio mitico. Ti presento fra poco un personaggio mitico. Però che non sentire sia Lavento, perché oggi. No, Lavento stasera no, perché ha da fare, però domani ritorna. Ha da fare. La signora Clotilde da Roma ci voleva dirci qualcosa. Poi ti presento un personaggio mitologico. No, non me ne frega niente, stai fermo. Clotilde da Roma. Clotilde da Roma, è 3 ore che la chiama. Lo so, signora Clotilde, dica. Senta, pensavo che lei mi dicesse vada. Vada, dica, vada, uguale. Ecco, no, vada lei. Ma vada a farsi fottere veramente. Ma signora Clotilde, su. Ciao. Potrebbe anche piacermi, tra l'altro. Sì, davvero. Sì. Oh, che carino. Sì. Io senta, l'ho vista da Parodi, sì. Dalla Parodi. Dalla, no? Parodi, con Parenzo, sì. Sì, senta, Lombroso aveva ragione. Sì. Il suo viso, guardi, è come una zecca. È come una? La zecca, ce l'ha presente la zecca? Che c'entra il paragone? Non quella dello Stato, eh? Sì, lo so, ho capito. Quella che si posa sul membro del segugio. Il membro del segugio. Sì, caro. Cara Clotilde. Caro Clotilde. Cara Clotilde, cosa mi vuole dire ancora di carino? Vado a farsi fottere, basta questo. Ma vai, guardi, dai. Cara Clotilde, guardi che potrebbe anche piacermi. Sicuramente, pervertito con me gli piacerà senz'altro. Ma guardi che essere pervertiti non è male qualche volta. Lo so, guardi, lei ce l'ha il viso da pervertito. Non brava, questo un po' è vero, questo un po' è vero. No, è proprio così, mi creda. Dopo averla vista ho capito tutto. Però le piace un po', Da impazzire, guardi, se avessi il senso dell'orrore, sì. Beh, guardi, che però, anche quello non è male come perversione. Eh? Però non ce l'ho il senso dell'orrore. No. Preferisco Parenzo, guardi. Beh, questo è buono, però. Questo è buono. Parenzo, prego, ti accomodati, Parenzo. Accomodati. No, no, ma lo preferisco a livello cerebrale. Ah, ho capito, a livello cerebrale. A lei manca pure quello. A me manca tutto. Il cervello, a lei. Cosa sta sostenendo? Scusi, che sono brutto. L'ho messo in vendita. L'ho messo in vendita. Ma cos'è che sta sostenendo? Che io quindi sono brutto, non ho capito. Beh, sì, ha detto che sei un cesso. No, no, no. Parenzo, per carità, tutta la mia stima, eh. Sì. E io molte volte mi chiedo come fa a sopportare Cruciani. Ma io ho un'indennità che si chiama indennità Cruciani, cioè nelle buste paga c'è sempre un'indennità, no? Adesso ho capito perfettamente. Quella la è un'indennità comprendo. Che è più alta rispetto al percepito, rispetto all'emolumento che mi viene. Lui mai. Senta, signora Clotilde, ma lei quest'altra persona lo conosce, quella che sta parlando adesso qui in conferenza stampa a Roma? Chi è? Berlusca? Berlusca, sì. Per l'amor di Dio, per lei è simile però, sa? Ma insomma, adesso questa si potrebbe anche discutere. Io una similitudine la troverei. Ma dove la trova la similitudine, scusi? Abbi pazienza. Nell'essere un po' zozzi. Sozzi in che senso, scusi? Cara un po' porcelli. Ma quello mica è un difetto, abbia pazienza. Beh, in Berlusca, per l'amor di Dio, se lì ha raggiunto quei limiti, sì. È già d'ambulanza veramente. Veramente, eh? Ma lei non le piace un po' come dire, questo aspetto un po'... No, francamente mi... Un po' maialesco, diciamo. No, guardi, mi disgusta proprio. Le disgusta, io sono molto tradizionale. Molto tradizionale. Beh, allora non faccio per lei, signora Godin. Ma no, ma meno male, ma per l'amor di no, Dio... No, vabbè, ma guardi... Oddio, che carini. Berlusconi ha detto che la Corte Costituzionale è in mano alla sinistra, una cosa nuova, ha detto Parenzo. Sì, cosa ha detto? Ma come dice anche lei le cose nuove. Sì. Però, vede, una cosa mi meraviglia. Che le meraviglia? Lei è sempre stato filo berlusconiano. Io com'è mai. Che ultimamente ha cambiato? Io mai, guardi. È lei che si sbagliava prima. Ma sa quanto l'ho seguita io? Sì, quanto? Allora mi ama. Allora mi ama. Oh, guardi immensamente, mi creda. Evidentemente resti lì, signora, appunto, resti lì, cara Clotilde, resti lì. Ti presento un personaggio, Parenzo, che ha fatto la storia di un sacco di cose. Sì, ma chiamami sul cellulare perché no, ma aspetta, no, aspetta un secondo, perché mamma aspetto, mia, eh? Aspetta, abbiamo un sacco di cose, guarda che fra poco c'è il botto qua. Sì, ma non ho detto di no, ho detto che devo andare a vedere Santoro. Non me ne frega niente. Voglio avvicinarmi a casa. Stai lavorando. Cioè, sì, attimo, dopo c'è la pubblicità, durante la pubblicità facciamo il cambio di telefoni, tranquilli. Cari ascoltatori, state tranquilli. Fino alle 21, se ci ascoltate, fino alle 21 avremo delle sorprese pazzesche. Sorprese pazzesche, pazzesche. Allora, abbiamo Berlusconi che dice che la Corte Costituzionale è in mano alla sinistra, non è una cosa nuova. E abbiamo un signore collegato che è un mito assoluto, che io non lo ricordo per le sue cose mitiche, lo voglio ricordare perché con Rivera, sai il comico Rivera? Come quello no? Con i capelli lunghi che lavorava quello anche con che la suona Gandini. I citofoni. Sì, esatto. Suonava il citofono con lui. Senti che scenetta meravigliosa, geniale. Senti. Siamo una giovane coppia omosessuale che non ci possiamo baciare per la strada, allora gentilmente se ci apre ci baciamo in ascensore. Venga, venga su. Che mi servo io. Signora, buongiorno. Buongiorno. Qua siamo una coppia di omosessuali che non ci possiamo baciare per la strada e ci fanno la multa. Allora se gentilmente ci apre, se baciamo nel portone. Guarda, il portone è aperto. Ah, aperto? Beh, ma la gente è chiusa, questo è il problema. Zanzara! Remotti, oh. Buonasera. Buonasera. Come sta, Remotti? Remotti, mi sente? Eccolo, Remotti! Grande, 88 anni, ancora vive e lotta, vive e lotta! Come sta? La sento un po', mi sento un po' lontano, dammi del tu, bambino! Ti do del tu, ti do del tu! Cantante, anni. Poeta, scrittore, ma uno come può definire Remotti? Come si definisce lei? Un povero stronzo, come si definisce? No! Un maniaco sessuale di sinistra. Ma un maniaco? Che significa un maniaco sessuale di sinistra, Remotti? Che ho 88 anni e mi piace sempre quella roba. Che le piace, scusi? Mi fa di parolacce. No, chi le fa di parolacce? Assolutamente no, per carità. Le piace sempre quella roba là? La patata. Sempre. Il sesso, l'amore. Sempre. E come fa 88 anni, scusi, Remotti? È il momento migliore. Ma come no, momento migliore, adesso non esageriamo, lei c'ha 3 bypass, ha fatto di tutto, cioè nella vita ha fatto qualsiasi cosa, ha lavorato con grandi registi, con grandi artisti, ha fatto veramente una vita che ci vorrebbero 3 trasmissioni, per... cioè adesso a 88 anni lei mi vorrebbe far credere che ancora, eh? Ma io mi levo la dentiera e gli do giù pesante. Ah, senza dentiera, dice lei, ah, il famoso metodo coso, com'è Parenzo, il metodo... Com'era il metodo? Il mio sistema. Ah, il suo sistema c'ha. Senta, ma uno di questi leader di sinistra di oggi, non parla, so. Parla forte, parlo, che non ti sento. Parlo più forte. Questi leader di sinistra di adesso, non sono tutti bacchettoni? Come? Questi di sinistra di adesso non sono tutti bacchettoni? Quelli di sinistra? I leader di sinistra, i leader della sinistra. Ma io voto per Bersani, sono un vecchio comunista e che me frega a casa. Cioè, perché vota per Bersani? Scusi, Remotti. Beh, perché io sono nato nel fascismo e nella Chiesa Cattolica. Sì. E nel cuore della borghesia romana. Sì. E pertanto, ovviamente... sono un antifascista, un democratico. E va bene, d'accordo. E allora Bersani è un discendente di Berlinguer, ma lo bene. E coso, e Renzi come lo definisce lei, Remotti? Come? E Renzi? Ma non mi convince tanto. No, eh? No. Non ne so molto, non ma ne sa nemmeno molto. Mi piace tanto. Non le piace tanto. Remo Remotti, attore anche per Bellocchio, Scola, Moretti, è stato anche, ha fatto una piccola parte anche in quest'ultimo film, Viva l'Italia, che è nelle sale, cantante, poeta, scrittore, ha girato il mondo. Parenzo, ma tu che ne sai? Ma che... lo so tutto di Remotti. Io, perché così tu... lontano, ma... se può fare qualcosa. Adesso facciamo qualcosa, Remotti, e questa è la radio, che deve fare? C'è un casino qua con le linee telefoniche, un casino. Parenzo, che c'è? Dimmi. Si può dire, perché lui ha fatto il anche un bellissimo film. Adesso. Il tempo migliore per che cosa, dice lei? Per tutto, dice, per la vita. Per la vita, dice lei, il tempo migliore è questo. È certo. Sì, ma per il sesso abbiamo già detto, ma in generale, dice lei, no? No, io sto bene, ho trovato Dio da molti anni. Ma quante donne ha lei, Remotti? No, io ho mia moglie e mia figlia. Sì, ma no, di donne... E poi un paio. Come? Sua moglie e poi un paio di donne che paga? No. E te credo. Ah, ho capito, cioè, perché... E sua moglie che dice? Ma che cazzo gliene frega a lei? Ah, non gliene frega niente, dice, Notizie dalla politica. Notizie dalla Lombardia. Si candidano Albertini per, non per il PDL, ma con non si sa chi, comunque con una serie di liste o con una lista della cosiddetta, lo usano tutti questa espressione orrenda, società civile. Si candida Maroni per la Lega, si candida Ambrosoli, che però dovrà passare per le primarie del centro-sinistra, se ci saranno, fissate per il 15 dicembre, insieme al signor Pizzul Junior, il figlio di Bruno. Tra l'altro, qua a Roma mi segnalano, sono sul taxi, quindi sì, sta ascoltando il tassista, la zanzara, naturalmente. Sì, sta ascoltando la zanzara, certo. Ma mi dava questa breaking news, è arrivato in ritardo di qualche minuto, perché questa è la notizia... Bello quando fa la cronaca. Violenti scontri fuori dall'Olimpico, laziali versus... Ma chi se ne frega? Sì, sì, bene. Non me ne frega niente, i tifosi greci, va bene, d'accordo, ma chi se ne importa? Beh, ma non è possibile che tutte le notizie che... Allora, di immigrati, di storie di migranti non si può parlare. Notizie fresche, prese sulla strada, non se ne possono... Allora, dice Berlusconi, il disgusto per la politica è colpa dei tecnici, ma qui ci vuole la punturona, quella grossa però, il disgusto per la politica è colpa dei tecnici. E la zanzara che arriva ogni estate in città, e la zanzara... Va bene, allora, signora Clotilde, che diciamo ancora? Che c'è da aggiungere, signora Clotilde? Signor Giuseppe, cosa vuole che aggiunga? Aggiunga qualcosa. Avete già detto tutto. Beh, aggiunga qualcosa, le faccio così schifo. Molto. Proprio tanto. Beh, come darle torto per la sua Clotilde. Grazie, Parenzo, grazie. Ma cos'è che le fa più schifo di me? Cos'è che le fa più schifo? guardi, intanto fisicamente, fisicamente le faccio, vabbè, proprio è orribile, sono orribile, va bene, d'accordo, sì, poi vabbè. E sa cosa c'ha? Assomiglia al volpino, al volpino. Chi e è poi il in televisione comunque il volpino, ha presente il cagnolino volpino? Il cagnolino volpino, vabbè, non me l'aveva mai detto nessuno, però. Vede, sono la prima, no? Sì, non è poi? Contento. Poi? Poi in televisione lei non rende. Non rendo, eh. Perché, le spiego, mi dica. Lei si sente padrone di questa trasmissione e quindi fa il dittatorello. E certo. E lo fa anche con Parenzo. Sì. Che Parenzo, essendo un gran signore, sì, non l'ha ancora mandata a fare in culo. No, ancora no, effettivamente ancora no. Però penso che prima o poi ci arriverà. E con questo la saluto e le auguro una buona serata. Buona serata anche a lei, signora Cotillo. Arrivederci. Arrivederla, signora. Parenzo. Grazie, cara. Salute. Un abbraccio. Caro Parenzo, facciamo il solito annuncio. Facciamo il solito annuncio. Siamo al top. Facciamo il solito annuncio per chi è in viaggio in questo momento. Padri di famiglia, madri, parenti, cosa devono fare con i bambini che sono all'ascolto alle 20:40 qui su Radio 24 e solo 24 ore? Dai le tue istruzioni, per favore. Ah beh, cari amici, se avete a bordo un bambino che ovviamente non può sentire il torpiloquio della zanzara, voi dovete fare una cosa molto semplice: accostare immediatamente la macchina nella corsia di emergenza, estrarre il bambino dal suo adorato seggiolino, aprire il portabagagli e appoggiare senza legarlo il seggiolino sul portabagagli, lasciando accuratamente lo sportello aperto, risalire prontamente in macchina, ingranare la quarta, 240 all'ora, radio a palla e via. Rocco Siffredi è con noi, caro Rocco. Come stai? Sta minchia a incrementare la quarta col bambino dietro, ragazzi, che messaggi date? Ma no, ma infatti guarda, ieri c'è stato un casino. Stiamo scherzando, stiamo dicendo sono è una zona 8 della zanzara. No, ma io di solito lo faccio con le ragazze, però va bene. Cioè, come lo fai? Che le lasci in questo modo, ragazzi? Ingrani la quarta, in un altro senso. È un'altra battuta. Qual era? La battuta qual era? Scusa, Rocco, ingrani la quarta. Battuta era che bisogna farle volare con la quarta, ma ingranando un altro tipo di cambio. Questo non c'è dubbio che è un altro tipo di cambio. Scusami un attimo, ma questa storia qui che in California, in una contea della California dove si producono molti film, ma diciamo il 95% del porno mondiale. Esatto, vietano, anzi impongono l'uso del preservativo. Sì, ma c'è questo tipo. Secondo noi, secondo tutto il business, sta facendo il suo business personale, sta buttando sul discorso dell'HIV, protezione per noi. Ma è importante, però, scusami. No, vabbè, allora ti spiego subito. Sì. Noi siamo. Ma tu hai mai tremato, Rocco? Hai mai tremato? Cioè, hai mai pensato adesso mi sono preso l'AIDS? Ma soprattutto se mi succedesse adesso a quasi 50 anni, mi farebbe girare i coglioni. Sicuramente sì. Sì. Allora, non è qualcosa in principio di sbagliato, io lo dico da sempre, anche se ti devo dire la verità, già non drizzano senza preservativo, col preservativo alla fine. È però, la fine, dici, di tutto. Ma sì, perché poi diventa un casino, tanti attori non ce la fanno. Non ce la fanno, però voglio dire, oggi esistono anche punturine, doping e cazzi vari. Il problema grave qual è? E chi è a casa? Io so, allora, il militare che va in guerra e che rischia la vita, purtroppo succede spesso e volentieri di sentire queste brutte però cose. Dici, se lo sceglie, no? Allora, lo sceglie. Io ti dico la verità, ok, non me la sto tirando, spero di no, però so che faccio un lavoro con una base di rischio. Tu che compri il DVD a casa, se lo compri, se non lo scarichi, e se lo scarichi meglio per te, che succede? Succede che mi vedi fare una bella scena, a un certo punto metto il preservativo, credimi, tanti parlano di realtà, ma non c'è una realtà. Cioè cambi, dice che togli canale, cambia, scende tutto, a meno che tu non risetti il mondo e dici, ragazzi, si fa, è una seconda pelle. Si fanno tutti così. Sì, è un'istruzione, lo dai come insegnamento, allora ha un valore, però se lo fanno tutti, mi spieghi che significato allora, ha? Allora, dimmi una cosa molto seria, che è questa. Guarda, ho detto cose serie anche adesso. No, sì, non lo so che hai detto cose serissime, però la cosa che bisogna dire è questa. Io quante volte hai avuto paura di esserti preso? Questo è interessante. Hai avuto veramente paura qualche volta? Mi sono preso l'AIDS. Ma diciamo che realmente non sono un vero kamikaze, però ci sono stati dei periodi nella mia vita in cui ho avuto un dubbio, ma non sul set, pensa tu, fuori. Ah, fuori, nel periodo sempre in cui andavi con tutte. Sempre fuori con quelle tipe che dici, cazzo, con questa è impossibile, è pulitissima, non e ci credo. No. E sai quelle volte in cui, questo è un messaggio che voglio lanciare veramente a quei ragazzi, non tanto le persone... come me, le persone giovani, i ragazzi che mi ascoltano, usatelo, dillo, usatelo. No, usatelo, ma solo per un motivo, perché la vita è troppo bella per limitarla a una scopata che è andata male. Bravo, allora io voglio dire una cosa, caro Rocco, diciamolo tu che puoi, lancia un messaggio, se anche insomma, tanti giovani ti riconoscono una sorta di mito assoluto. Allora, ma guarda, l'ho appena detto, cioè io dico nulla vale la pena perché ci si abitua anche al preservativo. Benissimo. Credimi, ci si abitua, il problema mio... allora dico gli attori, noi diciamo, per noi non vale perché sappiamo i rischi che corriamo, giusto? Ma anche un altro motivo, io lo faccio per un utente finale che vuole vedere delle cose, magari ecco, non si vuole limitare in questa visione. Guarda, ti dico, io poi parlo sul vero, sulla realtà. Chi ci ha provato sono la Vivid americana, Marco Dorselli in Francia, e sono tornati a togliere il preservativo perché non vendevano più nulla. Il problema qual è? Che se lo mettono tutti al mondo ha un senso. Adesso lo sai cosa succederà? Che gli americani verranno a girare i film porno qui, da noi, quindi riporteranno scene in America senza preservativo. E sarà perché la stessa la legge cosa, è stupida, dici. E non puoi usarlo, devi usarlo nella contea di Los Angeles. Questi lo sai che fanno? Fanno un favore a voi, però. E si spostano a Las Vegas o in Florida. Ma tanto vi fanno un favore a voi se vengono in Europa, o no? Ma a noi in generale, devo dirti la verità, ci fanno un favore a metà, perché sì, riportano un po' il business su, perché in questo momento la metà delle attrici, i tre quarti fanno anche il lavoro il più vecchio al mondo per arrivare a fine mese, e te l'assicuro perché vanno di moda. Ma tanto quello lo facevano comunque, dai. Ma in Svizzera, in Austria, io chiamo le attrici, mi serve lei domani, dopodomani, guarda, la settimana prossima inizio per due settimane di riprese, e la metà delle attrici erano tutte in Austria, in Svizzera, a fare che? Mica si girano film porno lì. E che fanno? Che vanno marchette a fare? Adesso va di moda, vuoi scoparti Anita Blonde, per dire un quanto nome paghi? Che non lo fa più. Quanto paghi? Ci sono dei siti specializzati adesso, oggi, dove tu con le puoi pornostar andare con la tua pornostar preferita, credimi, guadagnano delle cifre pazzesche. Il problema vero è che chi fa il produttore, nel caso specifico io, mi ritrovo a dover star dietro a tutta questa sorta di problematiche. Poi queste ragazze qui cambiano la mentalità, arrivano sul set con l'orologio in testa. Quanti minuti devo fare questa posizione? Perché oramai sono diventate... sono problemi questi qua. Traffico, torniamo subito. Rocco Siffredi, un mito, una leggenda, ma fermi tutti, qui abbiamo un collegamento speciale fra poco, Parenzo. Devi fare una marchetta, Parenzo, ti dico solo questo. Devi fare l'esaltazione di un libro, te lo dico subito, Parenzo. Devi fare l'esaltazione di un libro. Beh, dipende, sono mettiti a tappetino, come le scimmie del circo. Mettiti a tappetino. Dipende da che libro è. Io, ad esempio, un libro interessante, libro di una persona molto importante, naturalmente, che ha scritto di virtù italiane, di gente italiana che ce l'ha fatta, di gente italiana... Andrea da Rimini, buonasera Andrea. Buonasera. Dica. Mi sente? Vada. Senta, io sono preoccupato perché con tutti questi ospiti, eccetera, mi pare passando in cavalleria l'intervento di Flavia Vento di ieri. Perché dopo il neutrino Majorana e dopo il bosone di Higgs c'è l'antimateria della Vento e voi non vi siete accorti di questa scoperta. Questo. Ma poi scusi, ha visto come ha reagito male Parenzo? Nei confronti di chi, scusi? Della sua Vento. Ha reagito malissimo. Signora Vento. Vabbè, ma Parenzo l'ha fatto apposta per farla arrabbiare. Su, caro Parenzo, prostrati. Abbassati. In taxi, come faccio? Mettiti là. Roberto Napoletano. Signor Napoletano, buonasera. Buonasera. Come buonasera va? A voi. Lei conosce il signor Siffredi? Signor Rocco Siffredi. Ma come? Di nome, solo di nome. Lei lo conosce? Di nome. Mai visto un film del signor Siffredi? No, mai no. Visto un film, no. Guarda, no. Guarda che non c'è niente di male a vedere i film del signor Siffredi. Ma tra il professor Dalimonte, ad esempio, il signor Siffredi, ecco, questo è il ma punto. No, ma non fare questa domanda. Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, è evidente che conosce più il signor Dalimonte e il signor Siffredi, su. Non lo insultare. Però Siffredi, devo dire, da questo punto di vista, cioè è un grande... esperto di cosa? Di legge elettorale, non credo? No, è un esperto di imprenditoria, cioè è un business particolare, no? Però vabbè, è comunque un esperto di queste cose, cioè investe all'estero, è andato all'estero. E quello è un mercato che tira sempre. È un mercato pazzesco. Ma il signor Napoletano ha scritto un libro, si chiama Promemoria Italiano. Naturalmente io vi impongo da conducatore assoluto, da dittatore assoluto della Zanzara, uscito per Rizzoli, di acquistare, perché è un libro, insomma, che infonde ottimismo sull'Italia, è vero? Beh, andrebbe messo da una speranza. Da una speranza. Attraverso. Cioè, l'obiettivo è stato quello, sì. Non di scrivere come se scrivessi un fondo per il Sole 24 Ore o, sì. O di fare l'ennesimo saggio, sì. Cioè, di affidarmi al racconto. Il racconto, sì. Degli uomini e dei fatti. Per dire che non siamo messi male, insomma. No, per dire che siamo messi male, però? ma se recuperiamo, sì. I valori che abbiamo dentro, se recuperiamo, se guardiamo, cioè ci guardiamo in faccia, guardiamo. Senza farci scontri, sì. Possiamo e dobbiamo ripartire. Guarda, lo sport è semplicemente questo, guardare ai fatti di oggi con gli occhi e il cuore rivolti al passato. Cioè io mi rifiuto di credere, lo racconto, sì. Che l'Italia siano gli spaghetti al caviale di Lusi, 180 euro pagati da noi contribuenti. Cioè non siamo, l'Italia non è Fiorito e Lusi. No, l'Italia per me è Dossetti. Che è Dossetti, signor Dossetti. Lo racconto a Bologna, sì. E paga il suo pranzo. Beh, adesso a Bologna uno va in trattoria, non è che si ricorda di Dossetti, e dici chi è? No, però Dossetti pagava il suo pranzo frugale, sì. 300 lire, e lo pagava di tasca sua. Ah, Donato, certo, Menichella, certo. Sì. Che nessuno ricorda, ma è un signore che è riuscito a far, sì. Guadagnare alla lira, dico, sì. La lira, sì. L'Oscar delle monete. Si rivolge a un altro uomo importante di questo, sì. Paese, che si chiama Gabriele Pescatore, sì. E gli dice, in foggiano napoletano, sì. Aggio fatto tanta fatica per mettere da parte oro e valute buone, chisti non sanna come l'hanno consumato. Parenzo, ho fatto questo... tanta fatica per mettere da parte il valore della lira, sì. Per mettere da parte l'oro, e questi sono pronti a sprecare tutto. Hai capito, Parenzo? Questi erano italiani... Noi, allora, siamo ci sono, questo. Noi siamo questo, benissimo, questo è il messaggio. Grazie Roberto. No, ma grazie Roberto. Poi io voglio tornare un altro grande italiano invece. C'è da ricordare un altro grandissimo italiano, Rocco Siffredi. Io voglio tornare, voglio passare da Roberto Napoletano a Rocco Siffredi. Sono in grado di fare anche questo. Siffredi, hai sentito queste persone? Le conosci? Manco una. Purtroppo, no, è che purtroppo, meno male per te. Ma, cioè. Ma neanche la pira conosce. Purtroppo, no. Perché mi occupo sempre di meno dei fatti importanti. Politici, importanti. Senti, invece facciamo una cosa. No, facciamo è un casino, un vero bordello. Un vero bordello, questo non c'è dubbio. Scusa un attimo, Rocco, dimmi una cosa. Facciamo un ritratto sessuale del centrosinistra che va alle primarie. Ecco, sessualmente, come vedi il signor Bersani, per esempio? Ma Bersani, lo vedo troppo, ma tutti i politici li vedo troppo coinvolti nella politica. Poi ultimamente, no, Bersani, proprio guardali in faccia sessualmente, dipingilo, tu che sei esperto di queste cose, anche di uomini, per carità. Ma secondo me non è uno che disdegna, assolutamente. Ah, no. Non disdegna, no, con queste maniche tirate su. No. Poi se non mi sbaglio è bolognese, no? Sì, Piacentino. Piacentino da quelle parti là, quindi hanno una bella cultura loro. Ah, del sesso dici tu, eh? Sì, una bella cultura. Cioè, secondo te... Non è sicuramente uno che si è adattato alle novità del sesso moderno, però credo che la sua storia ce l'abbia, dai. Dici... Non mi sembra... Non ti sembra sprovveduto da questo punto di vista. No. E Renzi invece, che invece va più... Renzi è giovane, simpatico. Però sessualmente, dici? Sessualmente anche credo che sia, non lo so, mi dà l'aria di una persona che gli piace, ma so che una persona sembra, molto fedele, sì. Molto attaccata alla famiglia, quindi magari ha trovato veramente feeling con la moglie alla grande. Però dal punto di vista sessuale ti ispira più Bersani, cioè secondo te più maiale Bersani. Non è questione d'età, Renzi mi sembra un pelino più spigliato. Però diciamo dal punto di vista sessuale più maiale Bersani secondo te? Beh, Me le vuoi far dire per forza? No, anche se tu l'hai detto. Ma guarda che quando si arriva a una certa età, maiale ci diventi. Per forza. Se ti chiami Bersani o no, se ti piace questo è vero, questo la patata, è così, Ti abbraccio, a presto. Ciao, Rocco. Un salutone. Ciao, ciao. A domani, 18.30. Sì, ti saluto, 18.30. Ciao, te lo saluto, 18.30. Caro Cruciani, vado a farci fottere, basta questo, bye bye. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, la passione si sente.